e poi stava al sacchetto delle spalle, già venuto a prendermele. Ciao, buon lavoro, avanti Mario, ci sei ancora, e poi Tonino, avanti, buongiorno a tutti. Maria, buon tutto, capo che c'è riposarsi, capo che se ne stai andando a lavorare. Dopo, a prima si chiamano la sua Maria. Il suo riposo è quello, cosa vuoi? Si fa la giornata in poltrona, davanti alla TV, e allora adesso se ne va a pagare un poco. E cosa vuoi fare? Così è la vita. E io me ne vado a città e le sciarpe per il cappuccino e la pasta per la molestina. E mi faccio per stamattina. E cosa vuoi fare? Ho tagliato un po' del paghieri, adesso lascio la gente che dorma, invece di attaccare la mattinetta, la farò più strana. Capito? E così si fa, chi sta in campagna se ne va in città. E se si sta in città se ne va in campagna. Va bene, avanti. Che corso, il Giovanni Ferro. Avanti per te, vai. Ma Luca, lo riprendo, riprendi con lui. Chiama di noi, Giro. Lascia fare le parti, cappuccino, ma no. Sì, se ne devi mangiare più. No, si può, no. Sì, adesso c'è dentro qui. Giro, io dietro non ci vado, ma giro dietro, capito? C'è la pasticceria carina, piccolina, per le ragazze. Avanti, prego, c'è un'altra. Bernardo, avanti, ecco, tu a poco trovo che sei di scarico, dunque, sei un po' la mano. Lo sento molto basso comunque, il movimento è fatto dalla mobile, deve essere. Avanti, esatto, proprio lui. Sì, buongiorno a tutti, sono stato a salutarvi. Buongiorno a tutti, c'era anche il collaboratore, davanti, buongiorno. Allora, bambino, allo scorso. calzoni, doppio rubo, reservata anche a te. I vertici, poi ti racconti stanno se fanno riesci. Mi raccomando, porta un po' di pavette stesse, porta. Va bene, avanti Luca, saluta anche tu a doppio rubo. E poi controlla a vedere quel di giorno, vai, che stanno andando male. Andiamo già, già, ci sentiamo, è Luca, è chiaro. Buongiorno. finisce un tubo. Voglia, sta caricare. Non se ne capisce niente di questo tempo. Sarà. Ci stavo perdendo, non so se mi ascolti ancora tu a me. Si è appagato, sentivo un bel basso. Quando le chiamate sentivo bene, adesso un po' più basso. Poi faccio le spese, non fa ragione, però si chiama la mamma. macchina o non arrivi più, tutto qua. Il segreto per farsi sentire, tutto qua. Gaffa, gaffa. A proposito, ma ne ricordate le stazioni da Claudio? Ho detto, gli avevi controllate le stazioni da Claudio? Vedi un po' la situazione. Quando sono passati ho avuto un po' sentito, ma anche io ho sentito il buco. Ti ho preso. Se volevano dare lo schermo di uso il posto per controllare le stazionali, il ragazzo di Fiamma, il 58 e il 45, il gruppo di moto. Vedi a me che antenna è, o sia la 2001 turbo? No, ma adesso del mondo, perché la verità è che la camera si sta facendo in casa. Allora, bisogna vedere com'è. Se è buono si può prendere, si può prendere, capito? Ciao. Ciao, buon pomeriggio, ciao. chiamato a chi? Ma vabbè, sono disposto, perché se abbiamo il fuoco va bene.